Ebbene sì, se vi chiedete effettivamente ma cosa sta accadendo in questo periodo di guerra nello spazio, perché anche nello spazio avvengono, si catapultano alcuni degli eventi geopolitici che noi attraversiamo in questo momento in Europa e un po' in tutto il mondo. Bene, qui siete sulla trasmissione di Radio Forte Giusta, Boca Chica Cosmodrome, che si occupa di espansione del capitalismo dello spazio, vero Bimo? Eh sì, e anche degli eserciti nello spazio oggi, facciamo uno strappo alla regola. Eh sì, e quindi parleremo di questo, ma solo ed esclusivamente dopo la nostra sigla. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. E allora benvenuti alla decima puntata di Boca Chica Cosmodrome, la trasmissione che, come dicevamo, si occupa di espansione del capitalismo nello spazio e lo fa in una maniera tutta sua, trattando anche di antagonismo anticapitalista nello spazio. Ciao Bimo, che insieme a Cobol qui conduce questa trasmissione ormai da tanto tempo. Siamo alla seconda edizione di Boca Chica Cosmodrome. Quanti anni sono passati dalla prima, Bimo? Un sacco. Un paio di anni. Siamo però arrivati anche alla seconda, alla decima puntata di questa seconda stagione, e tutte le puntate le troverete sul sito di forteprenestino.net nella slot di Boca Chica, nella slot di Radio Forte, nella slot di Boca Chica. Questo perché? Perché trasmettiamo in diretta effettivamente dal Forte Prenestino, dal centro sociale occupato autogestito di Roma, Forte Prenestino, da Radio Forte. Quindi buonasera a tutti, buonasera a Bimo. Buonasera, buonasera. Allora, seconda edizione, dicevamo, la prima lo ripetiamo ogni volta, ma insomma facciamo bene a dirlo. Una prima edizione, quella di un paio di anni fa, molto più approfondita e molto più accademica, se vogliamo, in alcune cose, mentre quest'anno ci siamo dedicati a una sorta di caffè di Boca Chica Cosmodrome, in cui trattiamo di argomenti più alla giornata. Insomma. Come sarà la terza? La terza sarà un misto, spero, perché io sono molto affezionato ancora alla prima, ma mi piace anche questa seconda nella sua leggerezza. Avrà i lati positivi di entrambe. Esatto, sarà un po' il figlio di entrambe. Esatto. Beh, vabbè, allora, intanto questa sera la novità che... Allora, intanto no, ricordiamo che noi abbiamo anche un canale Telegram in cui ci potete contattare, è facile trovarlo, perché è Boca Chica Cosmodrome, quindi lo trovate esattamente così mi è scritta la trasmissione. Non ce ne sono altri con questo nome. Sì. Per chi ci sentisse la prima volta, come dicevamo, noi parliamo quasi esclusivamente di capitalismo spaziale. Quest'anno lo facciamo da quest'anno, abbiamo introdotto questa novità che sono questi 45 giri che trasmettiamo, 45 giri diverso di 4-5 minuti circa l'uno, che abbiamo... Oggi sei, che abbiamo grabbato da una enciclopedia Fabbri degli anni 60. Grabbato nel senso che ci siamo appropriati dei 45 giri e li abbiamo convertiti in digitale solo per voi. Esattamente quello che abbiamo fatto con Bimo, e quindi speriamo vi piaccia e che ne godiate come noi, sia per approfondire gli argomenti, ovviamente sempre sul tema spaziale, sia per approfondire gli argomenti, ma anche per godere semplicemente delle atmosfere. Quindi, esatto. Bimo, a te la regia. Ecco che arriva. Mosca, 11 agosto 1962. La radio sovietica stava trasmettendo un concerto di Rachmaninov. Bruscamente la trasmissione viene interrotta. Внимание, говорит Москва. августа 1962 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль Восток 3. L'11 agosto 1962, alle ore 11:30, ora di Mosca, nell'Unione Sovietica è stata lanciata sull'orbita del satellite Terra la nave cosmica Vostok 3. L'astronave è pilotata dal cittadino sovietico, l'aviatore cosmonauta maggiore Nikolayev Andrian Grigorovich. Pochi minuti dopo, le radio di tutto il mondo annunciavano il lancio. Radio Moscou a interrompu ses émissions pour annoncer que l'Union soviétique avait envoyé un vaisseau spatial avec un homme à bord. Wonder. The Russians have put their third astronaut into orbit around the Earth. He is Major Andrian Nikolayev. The Russians say the spaceship went into an orbit close to that planet. L'Unione Sovietica ha messo in orbita una nave spaziale. È un'altra conquista dell'uomo a commuovere il mondo. Da Piazza San Pietro una voce, la più alta, interpreta la trepidazione di ciascuno di noi. È quella di Papa Giovanni. In questa ora amiamo associare alle intenzioni della nostra preghiera il giovane pilota dello spazio, diletti figli, appartenenti a tutte le genti. Voi siete qui adunati come buoni fratelli, mentre il pilota sta sperimentando in modo quasi decisivo e certo determinante le capacità intellettuali, morali e fisiche dell'uomo e continua quella esplorazione del creato che la Sacra Scrittura incoraggia nelle sue prime pagine, incredibili superterra ed replete eia. Questi sono i segnali della Vostok 3, l'astronave dalla quale Nikolayev parla con le basi di Terra, usando il nome convenzionale di Falco. Sono stati registrati a Bochum. Ascolterete ora un messaggio che l'astronauta invia sorvolandoli ai paesi socialisti. Attenzione, attenzione. Vi parlo dalla nave spaziale e mando i saluti della mia nazione a tutte le repubbliche socialiste. Firmato cosmonauta Nikolayev. Anna Alexeyevna Nikolayevna, madre del giovane pilota, parla ora con suo figlio mentre sorvola l'Unione Sovietica. Родной мой, о тебе, о твоем друге Павле думаю не только я, а все люди. Помни, сынок. So che stai facendo una cosa molto difficile. Tutti ci ricordiamo di te. Sono contenta che ti sia stato affidato un compito così arduo. Ti auguro di portarlo felicemente a termine. Ora Nikolayev risponde a Nikita Khrushchev che gli parla da Mosca. Qui la nave spaziale Vostok 3. L'astronauta Nikolayev. Mi sento bene e tutti gli strumenti funzionano perfettamente. Gli risponde Khrushchev. Vi sento, compagno Nikolayev. Sono contento che stiate bene e che tutto sia in ordine. Vi auguro di portare a compimento questo storico volo. E quindi il cittadino sovietico Nikolaev 63, un paio d'anni dopo l'impresa di Gagarin. Tante cose in questo, tante voci in questo bel estratto, sì, con il compagno Nikita Khrushchev pure anche addirittura. Eppure e questa voce della Rai che sembrava, non lo so, provenire dall'AR più profonda. Commentare delle adunate a Piazza Venezia aveva quel tono, aveva ancora quel tono lì, certo, un po' teatrale. Allora, e poi c'era anche l'uccellino della Rai, a un certo esattamente punto. Allora, siete sempre all'ascolto di Boca Chica Cosmodrome, siete sempre siamo sempre in diretta dal CSA Forte Prenestino e in questa puntata ci concentreremo, Bimo, quasi solo esclusivamente su dati di cronaca e non possiamo non rifarci all'analisi geopolitica di quanto sta accadendo oggi in Europa, perché quello che accade sul territorio probabilmente si reverbera nello spazio. D'altro canto questo è un nostro, quasi un nostro teorema, no? Il fatto che si potrebbe forse anche tradurre in come in cielo così in terra. Cosa sta accadendo nello spazio? E io qui spazio? Dico sempre come in terra così in cielo, però sì. Ormai abbiamo questo, il siparietto è collaudatissimo. Cosa accade nello spazio? Cosa accade nello spazio? Lo spazio è anche teatro di operazioni militari che in qualche modo vanno oltre gli scenari classici. Quindi in questa e probabilmente la prossima anche puntata ci soffermeremo sulla questa militarizzazione dello spazio. Che avviene ormai da quando lo spazio praticamente è stato in qualche modo conquistato. Adesso inizieremo con, ovviamente sto parlando io, quindi parleremo di un po' di trattati, perché ormai sono diventato la voce dei trattati internazionali, il leguleio del gruppo, e quindi iniziamo da questo. E come al solito ci riconduciamo al nostro ormai cavallo di battaglia, che è l'Outer Space Treaty del 1967, il quale nella illusione probabilmente di preservare lo spazio da un'escalation militare prescriveva in modo esplicito che in orbita non potessero essere messe né delle armi nucleari né delle armi di distruzione di massa, e questo è un primo punto debole, diciamo, del trattato, perché per esempio non dice nulla delle armi convenzionali e proibiva anche di stabilire delle basi militari o delle installazioni militari su qualsiasi corpo celeste, quindi dalla Luna a tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. E quello che in realtà non impediva era, per esempio, il transito di armi o di veicoli armati nello spazio provenienti dalla Terra e diretti alla Terra o nello spazio, quindi questo era un altro problema, un altro spazio lasciato aperto ai militari. E quindi però concludeva affermando, come a livello di principio, che lo spazio non doveva essere utilizzato in nessun modo per operazioni militari, quindi introducendo una sorta di piccola contraddizione che poi ha tenuto occupati gli esperti nei decenni successivi. L'articolo che si occupa di queste questioni è l'articolo 4 del trattato. L'articolo 12, sempre del trattato, prevedeva la possibilità da parte di uno Stato membro del trattato di poter ispezionare qualsiasi base, equipaggiamenti, veicoli di altri Stati membri, in qualche modo cercando di arrivare a una sorta di equilibrio tramite la trasparenza. Di questa possibilità, non si è avvalso nessuno negli ultimi anni. Partono anche soprattutto da quando è scoppiata la guerra. C'è stato un blocco soprattutto delle indagini reciproche. Ma anche prima, nel senso che ci sono dei lanci militari che effettuano in orbita, sì, effettuano delle operazioni in orbita, lanciano degli altri oggetti, poi magari li distruggono, poi li riprendono, insomma. E quindi in modo però non trasparente, in modo completamente opaco. E il fatto che i tempi siano cambiati non è sfuggito ai rappresentanti all'ONU dei vari paesi, e ci sono degli inviti o appunto delle esortazioni. Per esempio il Costa Rica, questo è un esempio, il Costa Rica è un paese che non ha al momento delle grandissime velleità spaziali, però invita l'assemblea e i comitati che se ne occupano a ritornare su queste leggi, su questi trattati, perché i tempi sono cambiati. Nello spazio, quando sono stati fatti questi trattati, c'erano 2, 3, 4 nazioni in tutto, e oggi invece la situazione è molto cambiata, quindi in qualche modo bisognerebbe intervenire. E negli anni successivi alcuni trattati però bilaterali tra Stati Uniti e Unione Sovietica all'epoca avevano in qualche modo tappato i buchi lasciati aperti dall'Outer Space Treaty. Per esempio l'Anti-Ballistic Missile Treaty del 72, che ABMT o ABM, proibiva lo schieramento nello spazio di sistemi antimissile, quindi sistemi non nucleari, che non erano stati proibiti dall'Outer Space Treaty. Non sono armi di distruzione di massa, sono semplicemente dei sistemi antimissile, ma questo trattato li proibiva. Da notare che gli Stati Uniti si sono ritirati da questo trattato nel 2002, quindi questo trattato non è più valido, e quindi si possono, il buco si è riaperto in qualche modo, almeno per quanto riguarda i due attori dell'epoca. Ovviamente questo trattato non includeva minimamente la Cina, per esempio, che adesso invece è un attore molto più attivo rispetto alla Russia, in qualche modo, no? E un altro trattato molto importante, sempre bilaterale, lo START 1, che Cobol conosce per le ricerche probabilmente di qualche libro che ha scritto, mi diceva prima. Sì, tanto poi ne parlerò, insomma, sì, comunque. Ah, sì. Quindi tornerà. Tornerà sull'argomento. Tornerà, sì. Fantastico. Quindi oggi, quale altra trasmissione nell'universo vi parla del trattato START 1? Esatto. Nessuno. E neanche del trattato INF. Questi due trattati introducono un concetto che è il concetto di non interferenza, cioè i firmatari del trattato si impegnano a non distruggere i sistemi degli altri stati, e in questo caso sono russi, erano statunitensi e sovietici, e dopo anche russi, perché l'INF per esempio è ancora in vigore. Si impegnavano a non danneggiare o distruggere i sistemi della controparte che erano dedicati alla sorveglianza, cioè entrambi i contraenti avevano il diritto di sorvegliare l'altro in modo tale che non contravvenisse, e l'altro si impegnava a non sabotare questa sorveglianza. Quindi per esempio l'attacco a satelliti di sorveglianza, satelliti di telecomunicazioni, veniva proibito, e questo va per esempio abbastanza in contrasto con le armi antisatellite che abbiamo visto. Precetto che tra l'altro in questi giorni sta tornando molto molto di moda, perché gli Stati Uniti hanno da poco dichiarato, o comunque sottolineato e fatto ben intendere, che qualsiasi tipo di attacco di questo tipo, anche attacchi hacker semplicemente ai loro satelliti, saranno considerati un attacco, diciamo, strategico all'apparato difensivo statunitense. Sì, sì, diciamo che dovrebbe, che poi, e poi andrebbero in violazione di questi altri trattati. Con... il fatto che abbiano avuto la necessità di risottolinearlo, secondo me è significativo. Sì, è significativo del fatto che non sta cambiando qualcosa. Esatto, che c'è qualcosa che non sta funzionando come chi aveva firmato questi trattati si aspettava. Concludo con l'ultimo trattato. Oggi un mucchio di trattati, scusatemi, ma bisogna mettere... Sono necessari. Esatto, bisogna avere una base sulla quale poi... Credo che tra l'altro né io né te parleremo di scudo spaziale. Non subito, non subito, vabbè. Però sicuramente sì. Tra l'altro... Il fatidico scudo spaziale, perché il trattato ABM introdotto in teoria avrebbe dovuto regolare quel tipo di questioni. L'ultimo trattato che vi infliggo è il Moon Agreement del 1984, il quale non faceva altro che ribadire tutto ciò che era stato già detto nell'OST, l'Outer Space Treaty. Dovremmo cominciare a usare questi acronimi perché i nomi sono lunghissimi, aggiungendo il fatto che, per esempio, il divieto di installazioni militari si estendeva alla zona sotto la superficie della Luna esplicitamente e degli altri corpi celesti del Sistema Solare implicitamente. C'è da dire che gli Stati Uniti non hanno mai firmato questo agreement, quindi da questo sono non solo vincolati in qualche modo. Sai, tutto ciò mi ricorda, in realtà, mentre parlavi, soprattutto nella prima parte delle cose che dicevi, un film che credo si chiamasse Meteor, degli anni Ottanta. Mi suona. No, in cui sì, uno di questi catastrofisti con l'attore, non me lo ricordo, ma un attore di questi americani sempre che lavorano sempre sul caso. Ah, che si scopriva che c'erano dei satelliti con quei missili, esatto, che venivano usati. Esatto, a un certo punto c'è questo meteorite che deve colpire la Terra e quindi Stati Uniti e Unione Sovietica si mettono assieme per cercare di risolvere la questione. E a un certo punto l'uno dice all'altro: ma noi lo sappiamo che comunque voi avete in orbita, esatto, satelliti, avete in orbita missili nucleari, anche noi sappiamo che voi ce li avete. Beh, allora usiamoli e spariamoli verso questa cosa. A tarallucce e vino, esatto, finiva. Tutto molto molto bello, il che ci porta sicuramente al primo brano musicale da questo punto di vista, che siamo ben lieti di inviarvi. Thank you. E siete sempre quindi a Boca Chica Cosmodrome, l'unica trasmissione nell'universo che si occupa di capitalismo spaziale, e oggi stiamo parlando e vi introduciamo un po' a quello che sono molto, che è molto l'attualità delle guerre spaziali. Avete appena sentito, ascoltato, l'avete tutti riconosciuto, un gruppo famosissimo nella storia, i Tornado, gruppo estone con la loro versione di Das Model, molto molto bella, secondo fantastica, forse anche più bella dell'originale, non lo so Però ambiziosa. Allora, questa problematica della guerra nel cosmo si apre ormai qualche anno fa, intorno soprattutto a un oggetto. Bisogna dire che i russi nel campo, almeno apparentemente, nel campo della guerra spaziale sono più avanti degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, forse un po' per gridare al lupo, ad un certo punto, meno di 10 anni fa, lanciano l'allarme intorno a questo oggetto misterioso chiamato Neutron. Che cos'è Neutron? Che voglio dire, un nome di tutto rispetto, che lo potevano chiamare in tanti modi per Neutron. Per un'arma spaziale. Te sparo col Neutron. Esatto. Però effettivamente non si sa bene che questo Neutron, nel senso che sono state lanciate più volte denunce sul fatto che probabilmente si tratta di un'arma nucleare. Io, mi sa che mi fa venire in mente, Bimo, il lupo al lupo del raggio della morte della Seconda Guerra Mondiale. Sì, ma poi il fatto che ci sia questo oggetto che ha un nome ma non si sa che è fantastico. Appunto, è come il raggio della morte. La morte doveva essere questa arma definitiva nell'arsenale di ogni dittatore della Seconda Guerra Mondiale, e ci lavorò addirittura Marconi al raggio della morte, ma nessuno bene in realtà sapeva di che cosa si trattava. Il Neutron in realtà ha questo stesso identico compito, quindi sembra un pochino una boccalata di, diciamo così, statunitense. Che però il Neutron hanno il merito di avergli dato un nome evocativo, almeno il nome funziona. Dicevi tu, Bimo, che in realtà il trattato del 67 vieterebbe il posizionamento di armi nucleari o convenzionali nello spazio. No, convenzionali no, in realtà questo è hai ragione, di non distruzione di massa. Sì, distruzione di massa, sì, che poi non è ben chiaro, sì, certo. Per quelle che sono le armi atomiche soprattutto, però, in realtà non sarebbero vietati i cosiddetti FOBs, ovvero i Fractional Orbital Broadbanding System, ovvero quei sistemi che in realtà coprirebbero solo una sezione di arco, quindi sparati dalla Terra entrerebbero in orbita per una piccola sezione di arco e poi ricadrebbero sugli oggetti terrestri. Quelli non sono vietati. Lo dicevo anche prima, cioè un'arma che attraversi lo spazio esterno non è vietata. No, infatti gli stavo dando un nome, nel senso che questa sono una prima tipologia di oggetti celesti, se vogliamo, bellici, che non esplicitamente vietati dai trattati, ma che in qualche modo riguarderebbero lo spazio. E in realtà invece una cosa già un po' più prevista e in qualche modo più convenzionale sarebbero le cosiddette armi antisatellite, ovvero quei satelliti che a loro volta avrebbero il compito di far andare in avaria o addirittura di distruggere i satelliti nemici, che abbiamo detto comunque essere un esplicitamente inteso come atto di guerra dovesse accadere. Questa tipologia di arma si divide in armi che in realtà sparano un dardo o comunque un qualsiasi tipo di proiettile, da un raggio della morte a questo punto, oppure esattamente satelliti ad impulso, impulso elettromagnetico detti EMP, oppure armi raggianti come ad esempio i laser o i fasci di particelle o addirittura i raggi X, il cui funzionamento qui è un pochino più complesso, non abbiamo il tempo di entrarci, ma insomma diciamo armi a fasci di particelle soprattutto. E questo è una tipologia di satellite già già sperimentata, ma che appunto potrebbe essere anche il Neutron, potrebbe avere questo... Chissà, forse questo... il Neutron era uno di questi satelliti, è il padre di tutti questi satelliti. Sta di fatto che comunque c'è un office specifico statunitense, che è quello sulla politica delle nuove tecnologie, che ha lanciato da qualche anno l'allarme esattamente su questo tipo di tecnologie cosiddette emergenti, cioè queste tecnologie che i russi starebbero sperimentando nello spazio e di cui non si sa bene il funzionamento, ma si conosce appunto la tipologia, abbiamo detto. Anche perché in realtà... Niente nomi evocativi questa volta? No, nessun nome evocativo in che questo palle, senso. Però. Sono, diciamo... armi generali. E qual è la questione intorno a queste armi? Che queste armi non sarebbero armi atomiche, nel senso che non sprigionerebbero una forza atomica nell'esplodere, però tutti i meccanismi che in qualche modo espongono e propongono avrebbero bisogno di una propulsione di tipo atomico, cioè nel senso anche la realizzazione di, quindi emissione di raggi X prevederebbe un motore atomico che in qualche modo avvierebbe il processo, così come per il laser. Quindi sarebbero armi atomiche che non a esplosione atomica, non a fusione atomica, ma in realtà armi che utilizzerebbero motori, da questo punto di vista, propulsori bellici di tipo atomico. E questa è un'altra schiera di possibili armi che noi potremmo trovare nello spazio. Sta di fatto che in realtà nessuna delle due superpotenze, anzi delle tre superpotenze, di fatto è così interessata a provocare e a scatenare una guerra nello spazio. Perché? Perché in realtà non escerebbe vivo nessuno, cioè nel senso che non è assolutamente, a parte per le armi diciamo a dardo, per tutte le altre armi a fasci, particelle, esplosioni, nessun altro, non è assolutamente assicurato che nessun tipo di sistema potrebbe rimanere illeso, quindi si potrebbe avere anche delle controindicazioni sul fatto che le esplosioni potrebbero danneggiare addirittura i propri sistemi. Sì, torniamo al discorso dei space debris che parlavamo qualche sì, ma tra l'altro diciamo nel 67 non era neanche, se tu riferisci al 67, no 67, okay. questo problema non era perché nel 67 sì. Non era ancora neanche prevedibile, no. Questo problema oggi, questo mettere fuori uso tutti i satelliti di una certa fascia orbitale potrebbe portare a un problema generale di blocco di tutti i sistemi, nel senso che la dipendenza dai satelliti spaziali è tale e tanta, sia per il blocco ovest che per il blocco est, che noi non abbiamo appunto una guerra di questo tipo non è di interesse di nessuno. Sta di fatto che negli ultimi anni l'attenzione degli Stati Uniti si è molto concentrata su un gruppo di oggetti denominati Cosmos. In realtà Cosmos, prima in Unione Sovietica e poi in Russia, sono una famiglia di oggetti generici che vengono messi nello spazio e che non vengono mai dichiarati esattamente il cui fine, la cui destinazione d'uso non è mai troppo chiara, ma spesso è anche semplicemente di osservazione, che è assolutamente lecito. A partire però da uno di questi oggetti lanciati nel 2013, se non erro, inizia una filiera di oggetti che sono specificatamente tenuti d'occhio, particolarmente il Cosmos 2574, che è un oggetto che in realtà è eliostazionario, cioè è sempre disposto in maniera tale da poter osservare parti della Terra ben illuminate dal Sole, il che i russi lo spiegano in termini di osservazione generica, ma in realtà potrebbe anche servire per colpire bene alcuni oggetti sulla Terra. Questi Cosmos hanno delle caratteristiche, sono entrati nel mirino del Dipartimento di Difesa americano perché hanno delle caratteristiche molto interessanti e sono degli oggetti pedinatori. Il primo di questi Cosmos, messo appunto proprio in orbita nel 2013, iniziò a pedinare alcuni satelliti americani e a viaggiare molto molto vicino ad essi, non facendo assolutamente nulla. Un oggetto Cosmos un pochino più tardo venne lanciato nello spazio e gli fu fatto colpire un altro vecchio satellite, che non colpì però, un altro vecchio satellite sovietico, e questo oggetto emesso, quindi sparato da questo satellite, adesso è uno degli oggetti che orbita, tra l'altro. Questi oggetti avrebbero una caratteristica cosiddetta matrioska, cioè in realtà sono satelliti che vengono messi nello spazio e poi si aprirebbero e in qualche modo distribuirebbero a loro loro volta altri piccoli satelliti o altri piccoli oggetti di cui bene non si conosce l'utilizzo. Ma appunto, se parliamo proprio di un campo, io adesso sono molto generico e molto poco specifico, perché è un campo così, nel senso, gli stessi osservatori statunitensi parlano di armi, come dicevo prima, di armi emergenti di cui non si sa bene l'utilizzo. Del resto sono emergenti e non si sa neanche bene se sono armi, poi da questo punto di vista. Che cosa sta succedendo dall'altra parte? Dall'altra parte si sta cercando di, quindi dalla parte della NATO e degli Stati Uniti, dalla parte NATO e Stati Uniti si sta cercando di rispondere a questa proliferazione di oggetti russi nello spazio, adesso veniamo anche ai cinesi molto rapidamente, con un sistema detto di proliferazione warfighter, di proliferazione warfighter space architecture, cioè un'architettura di proliferazione di oggetti spaziali per la guerra, insomma, che si tratterebbe in sostanza di una sorta di Starlink militare. Al momento solo pochi di questi oggetti sono stati messi in orbita, anche di questi si sa molto molto poco, ma in realtà avrebbero il compito soprattutto di sostituire molto molto rapidamente satelliti messi fuori uso da agenti stranieri antagonisti. Si è fatta anche una simulazione, questa fatta dalla NATO, cioè soprattutto dai francesi, con un sistema che con molta poca fantasia è stato chiamato Aster X, senza la I però, quindi Aster X. È un sistema praticamente francese Aster X, un sistema francese sperimentato dalla NATO intera per prevenire gli attacchi hacker, quindi di hackeraggio dei satelliti messi nello spazio. Per ultimo, così come ultima trasvolata molto rapida su questa sulla proliferazione di oggetti spaziali belligeranti, la Cina ha immesso nello spazio tutta una serie di satelliti spazzini, satelliti che andrebbero, tra l'altro abbiamo fatto una puntata due o tre puntate fa parlando proprio di questo, cioè ovvero di oggetti che dovrebbero avere il compito di ripulire tutto quello che è il mondezzaio che stiamo creando nelle orbite terrestri. Bene, i cinesi hanno messo dei satelliti in orbita proprio per questo scopo, ma gli Stati Uniti hanno il sensibile, forse anche ben depositato sospetto che in realtà questi bracci automatici utilizzati da questi satelliti per prendere gli altri oggetti potrebbero servire proprio a prendere altri satelliti nemici e immetterli nelle cosiddette orbite cimitero, quindi orbite che poi li riassorbirebbero nell'atmosfera terrestre distruggendoli, oppure su orbite totalmente inutili per quello che è il monitoraggio e gli scopi militari di questi, facendoli questi poi precipitare sul territorio di paesi avversari magari. E questo è tutto un altro problema che ci porta a un altro brano musicale che questa sera vi presentiamo. E siete sempre all'ascolto di Bocca Chica Cosmodrom, in diretta da, su Radio Forte, dal centro sociale occupato autogestito di Roma, Forte Prenestino. E questa è l'unica trasmissione in universo che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio e anche di guerra spaziale a questo punto. E che vi mette questo pezzo che si chiama Yermande di un gruppo chiamato Mark Ernestus Ndaga Rhythm Force. Beh, una cosa difficilissima. Difficilissima, guarda, portato... infatti sono molto fiero di me. Sono riuscito a dirlo tutto. Ci hai portato una cosa davvero molto complessa. Beh, io intanto volevo salutare Andromalis, che è il nostro compagno di viaggio, che però questa volta non ci ha mandato. Ci ha abbandonato. Sì, non ci ha mandato il contributo, ma noi gli vogliamo bene uguale. Sì. Andromalis, disegnatore, illustratore, agitatore culturale che ci accompagna in questo, anche nella prima edizione di Bocca Chica Cosmodrom, in questo viaggio nello spazio con le sue recensioni ghezziane di fumetti spaziali underground, molto molto belli. Andatevi a sentire assolutamente nell'archivio tutte le sue recensioni, perché troverete materiali da sfogliare con gran piacere, e anche le sue, come dire, anche le sue prestazioni oratorie sono ammirevoli. Beh sì, se avete bisogno di qualcuno che vi presenti qualsiasi cosa, Andromalis va benissimo. Andromalis presenta, è una rubrica. Sì, assolutamente, presenta qualsiasi cosa. Beh, a proposito di rubriche, noi, se non sbaglio, abbiamo una rubrichina che, nostra che vabbè, ha anche una sigla, che ha anche una sua sigletta. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. La mia mente mi appartiene, nessuno me la cambierà. Ed eccola qua la rubrica di Ray Max. Cuore matto. Cuore matto, che oggi però avrà una forma completamente nuova che noi non sappiamo, perché non ci ha detto nulla. Attenzione che questa sera potrebbe cambiare le nostre menti. Volevo solo dire una cosa prima che parte Remax. No, no. Figurati. Mi è venuto in mente il protagonista di questo Meteor, di questo film, che non so, mi ricordo se si chiama Meteor, ma comunque è Charlton Heston. Secondo me si chiama Meteor perché anch'io qualcosa mi ha risvegliato. Suona un po'. Vabbè, stasera su CB01 lo andremo a cercare. Esatto. Va bene. Vai Ray. Non perfetto. Questa sera voi avete parlato di... Potremmo dire che questa sera è Sex and Violence. Come si parlava prima. Quindi, avendo noi parlato di violence finora... Si parla di sesso. Cioè, dopo Baglioni, questa sera entriamo nel territorio sesso. Devo fare una piccola premessa. Noi abbiamo la nostra chat su Telegram, che continuiamo a dire. È semplice. Bocca Chica Cosmodrom. In realtà neanche noi sappiamo come pronunciarla. Però abbiamo una chat. Però scritta è facilissima. Ancora più semplice scriverla, dove sono arrivate spesso delle domande che io ho ripresentato, riferito qua ai nostri due valorosi conduttori del popolo. Non sono arrivate domande, però mi è arrivata a me una sollecitazione interessante. Cioè, sapete che io mi interesso di fotografia, faccio fotografia. E una persona ha detto: ma perché Ray non fai, tu che ti occupi di cose spaziali, di fotografia, non fai delle foto erotiche a sfondo alieno? Dice, ci sono tante storie. Dico, beh, veramente non saprei proprio come immaginarlo. E mi sono anche sentito un po' in colpa per questa cosa. Ho detto, com'è che non ho mai... Ho letto e ascoltato i libri di Coppola, abbiamo parlato spesso, no, di incontri del terzo tipo, del quarto tipo, giusto, Coppola, mi sembra, quelli con l'incontro carnale proprio tra alieni e umani. Però io non riesco ad immaginare come potrebbe essere un incontro di tipo sessuale erotico tra umani ed alieni. Allora ho iniziato a cercare e ho trovato queste immagini che adesso passo in diretta. Per favore, Bimo, una cosa molto radiofonica. Parlare di immagini in diretta. Io ho trovato una persona, il signor David Huggins. Vi racconterò possibilmente, vabbè, esatto, velocemente, possibilmente, però, in breve, la storia del signor David Huggins. Viste le immagini molto rapidamente. Nel 61, cioè due anni prima della missione spaziale del signor Nikolaev, lui dice che dopo avere già incontrato gli alieni a 8 anni nel territorio rurale della Georgia, Stati Uniti d'America, a un certo punto a 17 anni è entrato in un boschetto. Quando ormai era abbastanza grande. Nel 61, a 17 anni, lui adesso ne ha 74, questo signore è entrato in un boschetto vicino casa, ha visto una donna seduta, Dopodiché lui ha perso la memoria e la cosa che ricorda dopo è questa donna a cavalcioni, lui che raggiunge un orgasmo e questa donna che gli dice: sono un'aliena e mi chiamo Crescent, cioè mezza luna. Da lì le avventure del signor Higgins si moltiplicano, lui di fatto è famoso per essere il pittore che dipinge le sue avventure con gli alieni. Ci sono almeno 200 dipinti, ma sono stati mostrati anche in musei importanti, diciamo, negli Stati Uniti. Immagino. C'è un documentario, un libro che poi magari metterò in rete, però lui descrive questi incontri con un insettoide, di fatto, no? Mi sembra, come potremmo definire questa creatura. Se la creatura è quella che ho visto nei quadri, chiamarla insettoide, beh, voglio il dire. Il volto con la frangettina, il mento a punta, così. Comunque lui la sì, cosa. Sì, però il resto no. Sono tipicamente. Sono tipicamente nella. Quasi iconografia a questo punto. Sì, nel bestiario alienologico sono i grigi, quelli che dici, grandi occhi, mento un po' detto, punta. Esatto, perché invece sì. Signor okay. David Higgins dichiara: no, gli alieni che ho incontrato non assomigliano assolutamente a nulla che abbiamo mai visto al cinema. In realtà, poi li dipinge e sono uguali. E sono uguali a qualsiasi cosa abbiamo visto descritto da H.G. Wells. Comincio ad avere nostalgia della vecchia rubrichina, esatto, cuore matto. Comunque, ultima cosa, lui dice di avere generato centinaia di creature interspecie. Lui praticamente è stato prescelto per generare figli mezzi alieni. E ha una teoria mondo. Sul perché è stato prescelto e proprio lui? No, questo non lo sa dire, come non sa dire se sono veri i capelli di Crescent. Dice: come posso sapere se sono veri i capelli di una di in effetti aliena? Come fa, scusa? Come fa? Del resto. E comunque c'è un documentario, si chiama Love and Sorcerers, del 2017, e poi ancora più bello il libro Love in an Alien Purgatory, La vita e la fantastica arte di David Huggins, libro del 2009 della grande esperta di UFO Farah Yurzu, che chiaramente consiglio a tutti. Beh sì. Beh, comunque devo dire che effettivamente io, da esperto di fenomeni non identificati, non la conoscevo, quindi grazie, perché la storia ci cambia la vita. No, magari non ci cambia la vita, però insomma aggiunge un tassello a quella che è l'iconografia tipicamente di sesso con alieni che noi conosciamo un po' più classe, i coniugi Hills, esatto. Villas Boas, che sono casi molto molto molto noti, tra l'altro spesso citati, perché questo sorprenderà forse chi ci ascolta, ma insomma ritenuti plausibili anche dalle audizioni del sì, congresso sì. dell'anno scorso, perché le persone che l'hanno riferito sono persone comunque degne di credibili, erano, perché credo che forse dopo averlo riferito no, in ogni caso no. Gli Stati Uniti su questo sono stati più come malleabili che su altre materie, va bene poi a capire perché. Tra l'altro quando prima parlavamo di oggetti, forse per ricollegarci un po' alle cose che diceva Ray, quando si parlava poi di oggetti militari non identificati nello spazio, si facevamo riferimento pure nella scorsa puntata, no? A questi UAP, cioè l'esigenza di cambiare l'acronimo UFO in UAP, proprio per questo, perché lo spazio, il cielo, sta cominciando a popolarsi effettivamente di oggetti non identificati, che non necessariamente sono alieni o extraterrestri, però sono appunto tecnologie, come dicono gli statunitensi, tecnologie emergenti, tecnologie di cui non si può sapere. In parte è uno spauracchio, ovviamente uno spauracchio per gridare al lupo per farsi dare più soldi e più armamenti, però dall'altro è anche vero che questi sono, se no non saremo qui a raccontarlo, sono campi in cui si inventa e si stanno creando anche strategie nuove di sviluppo militare. Quindi ormai anche i poveri UFO sono diventati sostanzialmente degli oggetti fenomeni da baraccone, roba dei cinesi, idee dei cinesi che ancora non abbiamo capito. Beh, questo ci dà sicuramente la scusa per arrivare al terzo brano di questa serata, poi rientriamo per i saluti e i bacetti. E siete sempre all'ascolto di Bocca Chica Cosmodrome, in diretta da su Radio Forte, dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma. Ray, cosa c'hai? È un brano un po' giocoso, si chiama Lost in Space di Scientist, che è un artista giamaicano, reggae, dub, ska, un allievo di King Tubby, che da una trentina d'anni fa brani, dischi, diciamo, a tematica spaziale ed erbivora, e con copertine molto fumettose, quindi ne riapprofitto per salutare Andro. L'amico Andro, esatto. Sì. Beh, devo dire che forse per la prima volta siamo riusciti a dare tutti i titoli di tutti i brani, dando anche un minimo di coordinate. Ci siamo rammolliti. Sì, sì, sì. Evidentemente abbiamo meno cose da raccontare. Beh, siamo arrivati alla fine della decima puntata. Chissà ancora quanto andremo avanti, Bimo. Io non ho idea. Non so se tu ti sei fatto un'idea. Sì, io me la sono fatto un'idea, però non la divulgherò. No. Non la svegliamo. Ce l'ho sulla testa. Non la svegliamo per il momento. E fine della decima puntata di Bocca Chica Cosmodrome, però non abbiate paura, perché ci ritrovate giovedì prossimo, sempre alle 21, e soprattutto ritroverete intorno a lunedì e martedì il podcast di questa trasmissione, qualora la voleste ascoltare. Noi vi invitiamo sempre a iscrivervi al nostro canale, dove ci sono approfondimenti, battute e anche come dire, molte altre informazioni che qui non riusciamo a dare o che abbiamo dato nelle vecchie edizioni. Tra l'altro, andatevi a sentire, per i più interessati, l'edizione di 2 anni fa, che trovate sempre sul sito di Radio Forte, che è all'interno del sito. Si possono anche rileggere i messaggi di allora. Assolutamente, beh, esattamente. Dicevo, all'interno del sito di forteprenestino.net, nella slot di Radio Forte, nella slot di Bocca Chica Cosmodrome. E beh, io salutiamo Andro, quindi a distanza, salutiamo Connie, che è qui con noi, ma che ci fa compagnia. Saluto Bimo, che Bimo a sua volta saluta. E io saluto Cobol e anche Ray. E anche saluto Ray. Tutti. E quindi sigla finale e baci, e a giovedì prossimo.